Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Una civiltà che non sorride è una civiltà infelice. E io trovo che ridere, proprio ridere, è una cura, è parte della guarigione. Per cui il consiglio che do a tutti è cominciare ridendo e finendo ridendo con una gran risata. Un consiglio di un grande, di Terzani. Beh, allora, cerchiamo di pensare, se da quando ci siamo svegliati non abbiamo ancora avuto tempo di farci una risata, facciamolo ora. Vi voglio dare un aiutino, però. Ridere sino alle lacrime, come quando eravamo ragazzi. Vi ricordate anche voi quegli attacchi di ridarella, ridarola, come la chiamavate? Insomma, erano intrattenibili. Tanto da dire, piango da ridere. Se lo ricorda sicuramente anche il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, che è in linea con noi. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno ai nostri ascoltatori. Si ricorda, sempre ritrovarci. Si ricorda, dottor Gargiulo, che belle ridarole quando arrivavano? Non me ne parli, meravigliose, erano meravigliose. Se ridevi per un nulla e andavi avanti le ore. Ridere, piangere da ridere. Quando deciso di fare il medico. C'è qua il dottor Scialdone. Buongiorno. Che buongiorno. Ci accompagnerà nel corso della puntata, responsabile dell'unità operativa oculistica prima, il Fate Bene Fratelli di Milano, che con il riso e con il pianto ha qualche cosa a che fare, perché in tutte e due le situazioni noi piangiamo e quindi escono le lacrime. Ma certo. Dunque, dottor Gargiulo, lui le conosce benissimo. Infatti, e di questo parleremo nel corso della trasmissione, ma quello che vogliamo dire oggi è che ridere e piangere fa bene. Sì, è vero Nicoletta, fa bene ridere e piangere, perché in realtà degli studi recenti hanno un po' smentito quello che in passato era venuto fuori, che queste lacrime, questo piangere, attenzione, non le lacrime, ma questo piangere non facesse bene alla nostra psiche. Oggi sappiamo che effettivamente questo pianto, che rappresenta uno sfogo, ed è uno sfogo in positivo o in negativo, perché noi piangiamo per un dolore, ma piangiamo a volte anche di gioia, anzi, speriamo di piangere sempre più spesso di gioia. Dicevo, questo pianto ci libera un pochettino, ci libera le nostre emozioni, ce le porta fuori, le fa uscire. E questa è una delle cose più belle, perché significa potersi mettere a confrontarsi con il mondo che ci circonda e trasmettere ulteriormente emozioni. E questa empatia è qualcosa che alla nostra psiche fa benissimo. Quindi le lacrime aiutano anche a sciogliere, eliminare delle tensioni o in qualche modo a ricaricarci quando sono di gioia. Nell'immaginario collettivo, diciamo un po' anche nella medicina, tra virgolette, delle nostre nonne, dopo un evento traumatico, drammatico, importante, pensiamo anche a un lutto, la cosa che si consigliava di più era proprio quella: piangi, perché il pianto, sfogarti con un pianto, ti porta fuori queste emozioni che tu tenderesti a reprimere, a chiudere dentro di te, a seppellire dentro di te, invece portandole fuori le condividi con il resto del mondo e le elabori nella maniera migliore e più positiva. Dottor Gargiulo, non ci resta che piangere allora. Beh, vediamo, speriamo di ridere. Di gioia. Di piangere da ridere. Grazie al dottor Gargiulo per essere stato con noi. 800 24 00 24, oggi parliamo di lacrime. Se volete seguirci potete farlo anche su Facebook e su Twitter, oppure mandarci un messaggio al 349-238-6666, non bagnato di lacrime. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Dottor Scialdone, il freddo in questi giorni ci dà una mano a piangere, perché con queste giornate così rigide i nostri occhi lacrimano, una reazione molto fastidiosa, soprattutto per noi donne quando ci trucchiamo, perché poi il mascara entra dentro, insomma, un macello. Ma si possono confondere con lacrime d'amore talora. Vede, lei ancora sta festeggiando San Valentino. Sì, sì, sicuramente. Speriamo però che almeno sia una fastidiosa reazione, ma utile. Sicuramente utile, non c'è dubbio, la lacrimazione è un sistema o reattivo o di difesa. Ci sono anche le lacrime da tasse, per esempio, che talora sono tremende. A parte gli scherzi, in realtà le lacrime sono un modo in cui la superficie dell'occhio si difende, almeno dal punto di vista, diciamo, della salute. Paradossalmente, anche quando abbiamo gli occhi secchi, soprattutto magari le persone anziane, ma non soltanto, ormai con i computer l'occhio secco è una realtà quotidiana anche per le persone molto più giovani, l'occhio può lacrimare e può lacrima in modo reattivo. Adesso siamo in inverno, quando c'è freddo abbiamo tantissime lacrime che sono evidentemente una reazione, da una parte all'evaporazione, da una parte allo stimolo. Possiamo usare anche le nostre lacrime come una sorta di test. Quando uscite al freddo, lacrimate? Sicuramente sì. Tanto, poco, quanto? Dottor Cialdone, come sì. possiamo usare questa reazione che tutti noi abbiamo necessariamente quando abbiamo temperature rigide, quando camminiamo al freddo, rientriamo in un ambiente caldo e qualche cosa succede. Ecco, forse ci dà delle indicazioni. Esatto, direi soprattutto di eventualmente cercare di ricordare o di focalizzarsi sulla durata della lacrimazione. Perché che ci sia un po' di reazione è anche abbastanza frequente, ma quando questa è in condizioni non estreme ed è, come dire, prolungata, allora diventa, diciamo, dal punto di vista fisiologico, meno motivata. E questo può dare indicazioni. Lacrimate quanto? 800 24 00 24. Gli occhi che piangono di più sono anche quelli che vedono meglio. Victor Hugo. Lo scriveva Victor Hugo, che avrà avuto una nonna come la mia, dottor Cialdone, che diceva che piangere fa venire gli occhi belli. Sì, sicuramente più lucidi, più riflettenti, più espressivi. Lacrime che però sono diverse dalle lacrime della cipolla. No, sicuramente. Quelle della cipolla sono lacrime reattive allo stimolo irritativo dato dalle sostanze che sono dentro la cipolla, non c'è dubbio. Le lacrime è una cosa che direi molto importante, non sono solo acqua, sono uno degli elementi del microambiente superficiale dell'occhio, che è costituito non solo da acqua, che è ovviamente la maggioranza, ma anche da grassi prodotti dalle palpebre e da muco prodotti dalle cellule. Quindi qualsiasi alterazione irritativa, infiammatoria, di anomalia, di sforzo, eccetera, produce anche una alterazione della qualità delle lacrime. E questo è molto importante ai fini anche delle terapie o di andare a ricercare le cause. Dottor Cialdone, le lacrime annebbiano la nostra vista, perché quando abbiamo gli occhi pieni di lacrime o dal riso, dal pianto, vediamo un po' tutto sfumato, no? Sfocato. È la sensazione di pochi secondi. Certo. Ma parliamo anche di annebbiamento, che può presentarsi anche senza lacrime. All'incontrario, cioè con l'occhio secco. Certo, naturalmente la superficie dell'occhio, quando non è ben bagnata, ha delle alterazioni della qualità delle immagini che sono di importanza molto molto maggiore di quello che si può pensare. Per esempio, persone operate, anche giovani operati di chirurgia rifrattiva, correzioni di difetti refrattiva, talora, diciamo non raramente, nei primi mesi dopo gli interventi possono avere una sensazione, perché sono stati danneggiati le terminazioni nervose dal trattamento laser, possono avere una sensazione di secchezza, e questo dà una risultato visivo inferiore a quello che si avrà successivamente con la stabilizzazione. Quindi un po' una vista un po' appannata. Esatto, come se si avessero le lenti sporche. Mettiamola così. Le piace, certo, questa? Certo. Ecco, e poi quindi focalizzatevi a proposito anche su questo aspetto. Ma noi torniamo a parlare di lacrime. Arrivano molti messaggi al 349-238-6666, ma a volte ne versiamo le lacrime, queste benedette lacrime, noi rischiamo di mandare un po' il nostro occhio in riserva di lacrime, non ne abbiamo la sensazione. Lei, dottor Cialdone, infatti accennava agli occhi che bruciavano, prudevano, abbiamo quella sensazione di spilli. Certo, perché, come dicevo, insieme alla lacrimazione si possono verificare frequentemente stati di irritazione. Ci sono, per esempio, applicazioni quotidiane normali con i computer, sì, prima una sensazione di secchezza, a volte quando stacchiamo alternata a sensazioni opposta di lacrimazione, per cui l'occhio si mette a, come dire, a produrre lacrime per cercare di compensare queste irritazioni. E l'utilizzo delle lacrime artificiali, che è molto diffuso, di cui successivamente parliamo, va un po', come dire, misurato e regolato anche in rapporto a quello che possono essere le cause, che vanno quindi ricercate con un po' di accuratezza e un po' di, magari, una visita oculistica. La butta lì lei, dottor Sheldon, ogni tanto un controllo ci vuole. 800 24 00 24, lacrimate per il freddo? E quanto dura la vostra lacrimazione? Lacrimate da entrambi gli occhi o da un occhio solo? E cosa vi dicono i vostri occhi quando vi lacrimano? Sono rossi? Prudono? Avete quella sensazione anche di sabbia dentro gli occhi? 800 24 00 24, segno forse che i nostri occhi sono anche un po' stressati, anche a volte hanno dei buoni motivi per farlo, ma si rimettono anche facilmente se sappiamo dedicare loro un po' di attenzione. Belli o brutti si stancano tutti. Buongiorno al professor Silvio Mafioletti, buongiorno a lei. Buongiorno. Ottico optometrista, e che ci aiuterà con dei semplici esercizi ad occuparci dei nostri occhi, anche responsabile scientifico del Centro Studi Ottica Avanzata e Optomaster. Professor Mafioletti, gli occhi si stancano, ad esempio, quando siamo per tante ore alla guida? Quando guidiamo, quando stiamo a lungo al PC, quando leggiamo a lungo, tutte attività che richiedono una messa a fuoco e una convergenza prolungata. Infatti il termine affaticamento visivo esprime proprio la difficoltà del nostro sistema visivo nelle condizioni di sovraccarico in cui è obbligato a funzionare. Quindi l'affaticamento visivo può essere presente in tutti, anche se l'acuità visiva è di 10 decimi, e può interessare chi ha occhiali ma anche chi non ha occhiali. Per questo, dottor Mafioletti, però c'è anche una buona notizia, che se con alcuni accorgimenti semplici ed efficaci noi riusciamo a lenire i sintomi. Iniziamo da chi avverte un senso di pesantezza agli occhi. Pesantezza agli occhi. Soprattutto dopo aver fissato a lungo da vicino, capita di avere questo senso di oppressione, di pesantezza sopra i bulbi oculari. Effettuare brevi pause, questo è il consiglio. Almeno un minuto ogni 30 minuti, alzare lo sguardo, osservare una scena visiva lontano, alla finestra o guardando appunto oggetti lontani. Questo rilassa gli occhi e dà una pausa a questo sforzo prolungato. Dottor Cialdone, voleva intervenire? Sì, magari anche una visita optometrica. Che dice? Per vedere se c'è un difetto di vista. Perché può essere anche un difetto di vista che magari accentua, stanca gli occhi, che si devono per l'appunto sforzare per mettere a fuoco. Professor Mafioletti. Certo, ad esempio alcune ipermetropie latenti, alcuni lievi astigmatismi, alcune lenti che potrebbero appunto lenire questo impegno accomodativo e renderlo più fisiologico, più confortevole. Vogliamo occuparci degli occhi che bruciano, che sono i miei. Io oggi ho camminato a lungo al freddo, poi non so se, dato che veniva il dottor Sheldone, non so, hanno iniziato a bruciarmi e in genere adesso quando arriva il medico più è taumaturgico. Ecco, invece a me bruciano, e quindi per chi ha bruciore agli occhi in questo momento, come me, che cosa suggeriamo? Possono essere tanti motivi, alcuni sono già stati affrontati, però ci sono anche quei casi in cui la fissità dello sguardo, quindi leggendo, guardando oggetti, guidando, provoca una riduzione della loro motilità. Quindi ogni 30 minuti io suggerirei effettuare due rotazioni complete degli occhi, orarie e anteorarie, molto lente e regolari, più ampie possibili, per sciogliere, diciamo così, per muovere, per dare una motilità ai 6 muscoli extraoculari. Abbiamo detto che il problema dell'affaticamento visivo può coinvolgere sia le persone che portano gli occhiali e che sia quelle che di occhiali e di lenti non ne hanno bisogno. Ma diamo un consiglio a chi porta gli occhiali, come il dottor Sheldone. Cosa deve fare? Io direi due consigli. Uno, controllare frequentemente l'assetto dell'occhiale sul viso, ad esempio l'appoggio delle aste sui padiglioni auricolari, non troppo strette ma nemmeno troppo ampie che lasciano poi scendere l'occhiale, controllare l'appoggio della montatura sul naso, i naselli, e quindi perché se la montatura lascia il segno? vuol dire che è troppo stretta, è troppo aderente e provoca poi disagio, e la persona appena può lo toglie e si inizia poi a avere questo metto tolgo che non aiuta la visione. Ma visto che ha introdotto questo argomento, ci sono una quantità consistente di persone che hanno occhiali progressivi, sì, che sono decentrati e mal montati e quindi provocano sforzo o costringono le persone a tenere la testa in posizioni strane, eccetera, e magari la mi dia un'indicazione per farmi capire se gli occhiali non sono centrati. Se non sono centrati, io mi metto in posizione, si dice primaria, cioè mi metto con la testa diritta normale come faccio sempre, e devo vedere bene così. Se vedo bene abbassando o alzando la testa, vuol dire che l'occhiale non è montato in posizione corretta, quindi non è colpa per esempio del progressivo in senso assoluto, ma di quel montaggio lì che magari non tiene conto del fatto che la mia faccia non è proprio perfettamente simmetrica come la montatura e quindi va sistemato. Quindi questa è un'indicazione che vogliamo sottolineare e dare alle persone che portano le lenti progressive. Quindi provate a mettervi fissi, tranquilli, con la testa al suo posto, non perdete, esatto, la testa, guardate, e si deve vedere bene, senza dover muovere il capo a destra, a sinistra, in alto e in basso. Professor Maffioletti, lei è d'accordo? Vuole aggiungere d'accordo, un consiglio? Questo è un tema importante, concordo perfettamente. E questo ad esempio apre un secondo scenario. Se lavoro al computer e ho uno schermo davanti a me, quindi quando leggo i miei occhi sono in posizione primaria, guardo dritto davanti a me e non vedo bene, sono costretto ad alzare un po' la testa all'indietro per vedere meglio perché ho le lenti progressive, potrebbe essere il caso di valutare se per quel tipo di postazione e quel tipo di lavoro non sia meglio un altro tipo di lenti. Ci sono ad esempio delle lenti che sono chiamate a profondità di campo, che sono molto opportune, molto utili per chi lavora a videoterminale, proprio perché hanno nella posizione normale di sguardo una focalizzazione a 40-70 cm, che è proprio la posizione del monitor. Quindi questo è un discorso davvero molto importante. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata. Buon lavoro. Gaetano da Napoli, Ivan da Milano, buongiorno a tutte e due, ma prima sentiamo Gaetano. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere al dottore, mi è capitato giusto domenica che ha incominciato a lacrimare, mi sono svegliato che ha incominciato a lacrimare un occhio per tutta la giornata, poi si è tolto. Si è tolto, nel senso è che sparita la è cosa. Sparita la lacrimazione, è finita. Un occhio solo però. Un occhio solo. Allora, Gaetano, cambia il problema se a lacrimare solo un occhio? Beh, cambia sì, perché molto probabilmente, soprattutto se è sparito la patologia o il problemino in una giornata, potrebbe essere una cosa transeunte. Non so, durante la notte mi sono sfregato inavvertitamente, mi è andato un piccolo corpo estraneo, mi sono un po' graffiato, cioè ci sono mille motivi più o meno banali per poter avere un fastidio monolaterale passeggero, insomma. Quindi lei non gli darebbe, chiuderebbe un occhio, come dire il dottor Scialdone. Andiamo da Ivan che ci chiama da Napoli. 800 24 0024, benvenuto. Buongiorno, chiamo da Milano comunque. Ah bene, di nuovo, io l'ho mandata a Napoli, mi scusi. Niente. Sarebbe comunque una città magnifica. Sì, certo, volevo chiedere, allora, io ho gli occhiali progressivi, sì, da un po' di anni. Come si trova? Sì, a parte la fase iniziale in cui bisogna un po' abituarsi e calibrare un po' la testa in base ai movimenti, insomma, ecco. Nonostante questo volevo chiedere, spesso mi capita di avere come una specie di appannamento, come se vedessi una specie di nebbiolina davanti agli occhi, non esagerata, però non avere una nitidezza di vista, ecco. Ma mono o bilaterale? No, entrambi gli occhi. Grazie Ivan. Ma potrebbe essere anche, adesso un po' poco, però potrebbe essere anche un'alterazione del vitreo, nel senso una qualche opacità del gel intraoculare che muovendo gli occhi gli si frammette davanti alla direzione di vista, di sguardo, e quindi gli ha quella sensazione di nuvoletta che passa davanti. Direi che se non altre sintomatologie, forse si fa dare un'occhiata al nostro Ivan, è un oculista. Lei ha parlato di vitreo, e ancora lì ci sono e si formano quelle mosche, i moscerini, i cordoncelli che ci preoccupano quando ci passano davanti agli occhi. Sì, è vero. Beh, tante persone poi, ovviamente, soprattutto giovani, si meravigliano, ma devo veramente convivere tutta la vita con queste cose? In realtà ce l'hanno talmente tante persone che, insomma, non è proprio una patologia, è un fastidio che ci dice che non abbiamo più 20 anni. Essere e benessere. L'ho dato tutto e tu mi lasci come un cane a piangere solo sale che a poco brucerà gli occhi miei. Lacrime di sale. Dottor Cialdone, se la ricorda, Lacrime di sale delle Orme. Sono troppo giovane. Sandra, buongiorno da Firenze. Buongiorno. Sandra? Pronto? Pronto? Eccola. Pronto? Qua. Buongiorno Sandra, Radio 24, Essere Buongiorno. Benessere. Buongiorno a lei, benvenuta. Non la sento. Sandra, la riprendiamo più tardi. Tommaso dalla provincia di Modena, buongiorno a lei. Buongiorno, buongiorno, e complimenti per la trasmissione. Oh, ma grazie. Mi dica, Tommaso. Senta, niente, una domanda al dottore. Io qui abito nella provincia di Modena, dove siamo sommersi dalla neve. Sì. E mi capita che quando vedo questi campi sterminati di bianco, i miei occhi mi faccio fatica a tenerli quasi aperti. Devo usare un paio di occhiali da sole. Certo. E lacrimano. Ecco, e lacrimano, così. Tommaso, anche? La luce, il riverbero della neve? No, non mi lacrimano. La fotofobia, così si chiama. O la fotofobia, giusto? La difficoltà che che avvertiamo a livello oculare quando c'è la luce molto forte, un riverbero. Forte luce, ma è anche tanta luce diffusa e, con glare, con abbagliamento. La luce arriva da tanti punti. Siamo internazionali qua, glare. Siamo forti. E quindi in questi casi che cosa vuol dire? L'occhio è affaticato, è in difficoltà? L'occhio è in difficoltà perché la luce diffonde in modo disordinato all'interno del bulbo, quindi diminuiscono il contrasto delle immagini e la retina in qualche modo riesce meno a immagini meno nitide. Quindi la reazione immediata è quella di stringere gli occhi in modo tale da far entrare meno luce. Certo. Si ovvia con un paio di occhiali da sole, ma questo dubbio. Disturbo invece deve in qualche modo non preoccuparci, ma farci prestare un po' di attenzione. In quali casi? Quando avvertiamo? Quando è associato, soprattutto quando è associato a fatica e proprio fastidio grave, quando mi applico, perché in questi casi spesso è associato a difetti di vista o quale volta a patologie vere e proprie. Quindi mi spieghi bene, se io ho fastidio proprio nelle zone luminose. Ho fastidio, mi dà tanto fastidio la luce, soprattutto se un occhio sì e un occhio no, c'è una grossa differenza fra i due occhi, potrei avere teoricamente in qualche caso anche infiammazioni intraoculari che possono provocare questo fenomeno. 800 24 00 24, sentiamo ancora gli ascoltatori. Giorgio dalla provincia di Rimini, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, io ho delle lacrimazioni e con sensazione di sabbia. No. Aggiungiamo un altro dettaglio, no. La sabbiolina. La sabbiolina è segno di irritazione della superficie, qualsiasi sia il motivo. La lacrimazione si aggiunge come tentativo della superficie dell'occhio di rimediare al problema. Quindi, a parte asciugarsi, non asciugarsi, eccetera, un collirio che non abbia effetti di tipo terapeutico o non sia accompagnato da una diagnosi oculistica della superficie non porta a niente. Quindi lei sta mandando un messaggio a chi, e sono davvero tanti, esatto, vive un po' con il collirio in tasca e al primo fastidio chiamalo bruciore, chiamalo senso di appannamento, stanchezza perché lavoriamo al computer, ore e ore di guida, tac tac tac, si mette la lacrima di collirio. Si mette la lacrima, che è temporaneamente utile, ma dopo 10 minuti si torna come prima. Se questi fenomeni non sono dovuti a un evento specifico, cioè oggi mi sono affaticato particolarmente, vabbè, mi metto il collirio di lacrime e passi, ma tutti i giorni mi succede che ho la pesantezza, ho l'occhio che mi brucia, mi sento la sabbia, me lo sento come se dovessi dormire, eccetera eccetera, me lo vedo anche rosso a giornate, un po' rosato, come se fosse un po' iniettato di sangue. C'è una, chiamiamola patologia, chiamiamola come si vuole, di base della superficie dell'occhio, che in qualche modo va aiutata con delle terapie specifiche antinfiammatorie, piuttosto che... Qui mi spiace, ma solo l'oculista può dare un parere illuminato. Beh, speriamo. Speriamo che sia illuminato, ma la cosa importante è quindi vedere se il disturbo non passa. È inutile aggiungere colliri e colliri e colliri, ma fermarsi. Ascolti, ma mi permetto una cosa. Ho visto una signora l'altro giorno che aveva una sintomatologia come quella descritta e ha usato un collirio al cortisone per diversi mesi e ahimè aveva una pressione dell'occhio molto alta. Quindi un invito diciamo noto è quello di usare le colliri al cortisone con moderazione. Se uno ha bisogno più di una decina di giorni, vada da un professionista a farsi vedere. Abbiamo parlato di collirio, attenzione, non esagerare, non è la soluzione, ma parleremo anche di lacrime artificiali dopo aver sentito Claudio, che ci chiama da Bologna. Buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Ma grazie a lei, Claudio. Mi dica. Io ho questo problema, io ho le lenti, quelle progressive. Quando la mattina mi capita, io faccio l'autista, quando mi capita di fare il disco mi si appanna tutto, faccio apro due o tre volte gli occhi, mi riprende la vista, è una cosa da preoccuparsi. Ma Claudio, allora si appanna la vista, però sbattendo tutto torna, gli occhi tutto torna normale. Ma questo è all'inizio, quando la mattina si sveglia? Quando vado a lavorare, che devo fare il dischetto del trichitofo, faccio l'autista, no? Sì. E allora mi si appanna, poi sbatto 3-4 volte e mi ritorna alla vista. Ah, capito. Beh, ma allora potrebbe essere, appunto, sulla base di quello che si stava dicendo, una secchezza di superficie dell'occhio, e sbattendo, un po' lei stimola la produzione di lacrime e quindi torna alla nitidezza. A proposito di lacrime, quindi, ci sono, quando le nostre non bastano, sono insufficienti per quantità, ma anche per qualità. Hanno una qualità non adeguata, perché l'occhio si vede che in quel momento lì gradirebbe altro, si aggiungono le lacrime artificiali. Non sono colliri, è un altro prodotto, vero? Supporto. Un supporto. Anzi, la parola, diciamo, l'espressione moderna è integratori. Integratori, anche i nostri occhi hanno bisogno di integratori, in gocce, in lacrime. Esattamente. Come orientarsi in questo, nella scelta della lacrima artificiale? Possiamo fare da soli, finché sono disturbi. Allora, uno, abbiamo una buona vista, non abbiamo patologie presumibili, eccetera, è una cosa intercorrente che non si ripete da parecchio tempo, eccetera. Andiamo di solito dove? Da un farmacista che dice: scusi, mi dà qualche cosa, eccetera. Cerchiamo, siccome ne esistono, direi, molte decine, se non di più, sul mercato, direi quelli con dell'acido ialuronico contenuto, sono quelli più frequentemente utilizzati, quelli che hanno la maggiore, vanno per la maggiore, sì. Diciamo 3, 4, 5 volte al giorno sulla base delle necessità, dei fastidi, eccetera. Per quanti giorni si possono usare? Diciamo che se il mio fastidio non mi passa dopo 3, 4 giorni, 5, e allora poi basta. Non è la lacrima giusta. Potrebbe non essere soltanto un problema di lacrime. Lacrime e collirio, oppure si deve scegliere uno o l'altro? Direi prevalentemente qualcosa che ricopre la superficie dell'occhio per un po' di tempo e mantiene la tensione superficiale, quindi prolunga l'effetto della lacrima naturale. Quindi quelli con l'acido ialuronico adesso ci sono migliaia di addizioni interne. È un problema che riferiscono spesso alle persone che magari portano occhiali, si stancano, ma anche le persone che si sono sottoposte a blefaroplastica, vero? È vero. È vero, uno degli effetti talora delle blefaroplastiche, soprattutto quelle inferiori, della palpebra inferiore, è quello di dare per, di avere per un certo tempo la palpebra un pochino più gonfia, un po' più rilevata, il bordo palpebrale non bene attaccato alla superficie. Questo causa una maggiore evaporazione e una alterazione del corretto ricambio lacrimale di superficie, e allora le persone con blefaroplastica possono avere per un certo tempo un po' di fastidi. In questo caso l'integrazione con una lacrima artificiale per un po' di tempo è importante e utile. Voglio salutare Patrizia che ci chiama da Parma. Buongiorno Patrizia, benvenuta. Buongiorno. Essere e benessere. Patrizia, eccoci qua. Buongiorno. Buongiorno a lei. Volevo chiedere al professore, sono una miope e volevo chiedere, quando c'è molta luce o sole, vedo sempre delle paline nere. Abbassando la luce non le vedo più. Si può intervenire. Certo, questo è un fenomeno, lei ha descritto bene quello che è la proiezione all'esterno delle cose di cui si parlava prima, dei filamenti, dei ragnetti, quindi delle anomalie del gel che c'è dentro l'occhio. Quando aumenta tanto la luce, guardo magari un cielo blu, una parete bianca, per contrasto mi entra più luce nell'occhio e quindi queste anomalie del vitreo, del gel, mi diventano come delle nuvolette davanti e le proietto meglio. Quello che dovrebbe o potrebbe fare, per esempio, è controllare anche un occhio per volta, se il fastidio è maggiore in un occhio piuttosto che nell'altro, confrontare la fotofobia, quindi il fastidio alla luce, tra un occhio e un altro. In genere i due occhi vanno sempre abbastanza, sono similari, per cui se qualcuno dei due occhi ha delle reazioni o delle sensazioni diverse, magari non ce ne siamo mai accorti o non ce ne siamo accorti da tempo, può essere un motivo per poter focalizzare delle eventuali stanchezze o disturbi oculari. Abbiamo parlato di lacrime artificiali. Sono vere e toccano il cuore le lacrime dei bambini. Eccolo qua. Chissà perché piange, avrà fame, al pannolino sporco, ha troppo caldo, troppo freddo, ha le colichette, vuole venire in braccio. Dietro al pianto di un bambino ci sono dei genitori preoccupati di interpretarlo. Sì, parlo proprio di interpretare, perché il pianto è un vero e proprio linguaggio, ha i suoi codici. E in linea con noi abbiamo la dottoressa Angela Rossi, psicologa dell'Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Psicologia Clinica del Bambino Gesù di Roma. Buongiorno dottoressa. Buongiorno a tutti. Dove è stata svolta una ricerca molto interessante proprio sul pianto del bambino, sul linguaggio dei bambini che ancora non parlano e comunicano per l'appunto attraverso il pianto. Dottoressa, quindi tanti pianti, tante cose da dire? Assolutamente sì, il genitore si trova inizialmente molto in difficoltà a cercare di capire che cosa il suo bambino vuole dire. Ma per ogni pianto, potremmo dire, c'è un significato da scoprire. Possiamo sentire un primo pianto e poi lei ci aiuta a interpretarlo. Andiamo, Carmelo. Dottoressa Rossi, che cosa vorrà dire questo pupetto? Ma io credo che sia sicuramente il segnale di un bisogno fisico, un pianto da fame, e infatti può essere caratteristica la bassa intensità con il quale questo pianto avviene, e poi diventa piano piano più forte e ritmico, se lo sentissimo più avanti. Vogliamo risentirlo, quindi inizia basso, con una bassa intensità, e poi sale e diventa più ritmato. Sì. E dice, dai, spicciati un po', mamma. È questo il pianto della fame. Proviamo a sentire un altro pianto invece, dottoressa Rossi, proprio per dare alle nostre mamme, ai papà in ascolto, un po' alcuni codici interpretativi. Lei ha detto, è un pianto, quello della fame, che inizia piano, poi sale. Sentiamo questo invece. Questo mi sembra già un pianto che sta al fatto suo. Infatti molto probabilmente è la segnalazione di un dolore, perché da subito, di uno stato di disagio abbastanza importante, perché da subito parte abbastanza potente e quindi disisce le consolazioni, perché va a prolungarsi nel tempo. Quindi se parte subito in quarta, ecco, lì vuole farci capire che qualche cosa lo disturba, è il classico magari dolorino alla pancia, le colichette sì, che ci sono in questi casi. E qua vengo a lei come proprio psicologa. Il bambino ha bisogno di sentire anche proprio l'odore e il calore della mamma e del papà. Assolutamente sì, e di sentirsi compreso nella sua comunicazione di bisogno. E è molto importante non lasciar cadere la rassicurazione, proprio la vicinanza fisica del genitore. A volte le mamme dicono: sono capricci, piange senza lacrime. Qua vengo dal dottor Scialdone. Sì. Talora i bambini piccoli, diciamo i neonati dei primi mesi di vita, primo anno di vita, possono piangere da uno spontaneamente, da uno o due occhi, quindi viene fuori una lacrimuccia qualche volta, non soltanto chiara ma un po' cremosa, un po' bianchiccia eccetera. Può succedere, non è raro, che non sia ancora completata, diciamo, la formazione dei tubicini lacrimali di uscita, quindi dei canalicoli lacrimali, e in questo caso l'oculista quasi sempre consiglierà un piccolo massaggio nell'angolo tra il naso e l'occhio, sì, quindi nel canto interno, un paio di volte al giorno per qualche tempo, per poter aiutare sia a spremere, quindi ridurre un po' anche le infezioni, le cose eccetera, e poi quasi sempre va a posto. Dottoressa Rossi, il pianto del bambino di notte che chiama i genitori, voglio che senta bene Carmelo Lauricella, che regia la parte tecnica, che è un esperto, e ci sono le varie teorie: mi alzo, non mi alzo, faccio finta di niente, lo prendo su, lo lascio giù, lo rassicuro. Qual è la sua ricetta rapida? Pratica è dare sempre comunque una risposta ad un pianto di un bambino e di far sentire la vicinanza del genitore, in modo tale che il messaggio che il genitore gli manda è di una rassicurazione, di una vicinanza fisica molto importante da subito. Ringraziamo la dottoressa Rossi, che ci ha decodificato un po' almeno due segnali del pianto del bambino: la fame e il dolore, e queste sono già due indicazioni che possiamo trasferire ai nostri ascoltatori che stanno alle prese con dei pupetti. Grazie dottoressa Rossi. Abbiamo ancora tempo, forse un minuto. Claudio dalla provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci. Niente, io volevo chiedere questa cosa al dottore. Allora, mi sono accorto dall'anno scorso, quando sono andato in piscina, sì, che praticamente dall'occhio sinistro, quando uscivo dall'acqua, mi passava davanti come un filo, un filino, tipo una ciglia, ma non sono sicuro che sia una ciglia. Beh, solo all'occhio sinistro, solo quando ero in piscina, era un occhio affaticato, ha fatto troppe vasche magari, oppure soddisfatto dello sport. E questa è la domanda? Poi adesso mi sto accorgendo che non solo quando esco dall'acqua, ok? Perché continua questa cosa ad esserci, ma se io guardo verso la luce, verso il cielo, chiudo l'occhio e lo riapro, questo filetto sparisce, sono quasi in chiusura. Claudio, dottor Scialdone. Claudio, non è un gran problema, vada a farsi un controllino e soprattutto smetta di confrontare destro e sinistro in continuazione, se no finisce dallo psicanalista. Grazie al dottor Scialdone per essere stato con noi, a domani. Essere e benessere.